La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. È giovedì 5 febbraio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sul tema Grecia, che è il tema economico, finanziario, geopolitico più importante in Europa e non solo. Stop di BCE e Berlino al piano di Tsipras, questo è il titolo di prima pagina. Anche il Messaggero apre così: la BCE taglia i fondi alla Grecia. E invece la politica italiana, il patto del Nazareno, è rotto, non è rotto, è morto, risorgerà il Nazareno. Chi lo sa, ci avevano insegnato fino a quando eravamo piccoli che il Nazareno risorge. Vedremo in questo caso, per questo volgare patto rispetto all'altro Nazareno. Corriere della Sera, Forza Italia nel caos, patto rotto. Repubblica, caos Forza Italia, addio patto, Renzi, andiamo avanti da soli. La Stampa, salta il patto per le riforme, il PD meglio così. Libero, Renzi il bullo non sta più sereno, sepolto il patto del Nazareno. Il Giornale, liberi tutti, la fine del Nazareno. Ovviamente magari tra due giorni leggeremo i titoli, il Nazareno c'è ancora, state tranquilli, la politica italiana va avanti così. Il Fatto Quotidiano, prima applaudono Mattarella, poi bloccano l'anticorruzione. Questa è la denuncia di prima pagina. Mentre l'attualità internazionale, vendetta reale è il titolo del Manifesto, in Giordania condannano a morte due persone per rispondere al bruciato vivo dall'ISIS, e Avvenire anche apre così, vendetta contro barbarie. Io però voglio partire da alcune notizie come questa di cronaca che trovate sul giornale, sul Corriere della Sera, ci porta a Nanto, in provincia di Vicenza, dove c'è stata una rapina qualche giorno fa. Racconta tutto Andrea Pasqualetto, una rapina in banca sventata dal benzinaio Graziano Stacchio. Martedì sera è successo. Graziano Stacchio, professione benzinaio, una vita dedicata al suo distributore, quando vede di un assalto armato a una gioielleria vicina alla gioielleria Zancan con 5 persone armate di mazze e Kalashnikov, prima urla andate via, poi entra in casa, prende un fucile, va lì, spara alcuni colpi, uno dei rapinatori muore. Spara al rapinatore, per noi in paese è un eroe, ma finisce indagato per eccesso di legittima difesa. A Nanto, scrive Andrea Pasqualetto, c'è Ulisse che fa il sindaco, c'è Don Diego che fa il parroco, e da ieri tra i paesani più popolari c'è anche lui, Graziano Stacchio, professione benzinaio, una vita dedicata al distributore, alla famiglia e a quel fucile da caccia col quale ama girare tra i boschi cercando caprioli. Martedì sera l'ha imbracciato per spaventare 5 rapinatori che stavano assaltando la vicina gioielleria armati di mazze e Kalashnikov. Ha sparato alle gambe di uno di loro e l'altro, un giostraio di 41 anni, è fuggito. L'hanno trovato morto, dissanguato, 200 metri più in là a bordo della sua macchina. Per la procura di Vicenza è doveroso indagare il 65enne benzinaio vicentino, una moglie, 2 figli, con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Per la gente del posto è inconcepibile. Siamo tutti con te, hai fatto la cosa giusta, sei un eroe. Il sindaco di Albettone, noto per dormire col fucile accanto al letto, dice: faccio le t-shirt e ci scrivo io sto con Stacchio. Per la verità il Corriere va a sentire questo signore che dice: un uomo che uccide un altro uomo non posso non può essere considerato un eroe. Io non volevo uccidere guardando l'asfalto, riferisce al Corriere. Sono scesi da due macchine verso le 7 di sera a quei passamontagna armati, hanno iniziato a picchiare sulla porta della gioielleria come barbari. Le macchine suonavano i clacson dicendo è una rapina, ma nessuno poteva far nulla, i banditi non importava, spaccavano tutto. Io ho pensato alla commessa della gioielleria, che è per me come una figlia, Jenny. Ho detto starà morendo di paura. Allora ho urlato andate via che arrivano i carabinieri, ma loro continuavano. Allora sono entrati in casa, ho preso la chiave dell'armadietto dove tengo il fucile, sono uscito, erano ancora lì, ho sparato un colpo in aria e l'uomo che faceva da palo ha risposto al fuoco, poi si è avvicinato puntandomi l'arma e gli ho tirato alle gambe, sono andati via. E poi si scopre che invece uno è morto. Lo so come la pensate molti di voi, ma ci sono stati tanti casi controversi di questo tipo. Allora una notizia invece di Repubblica che è piccola, la trovate a pagina 7, è la notizia di Alessandra Longo dal titolo Il retrobottega, la rubrica è Il bel paese, la voglio sottolineare, è una bellissima iniziativa di un supermercato romano del gruppo Panorama. E scrive Longo, forse non è l'unica iniziativa del genere, ma è l'unica che conosciamo noi a Repubblica. Man mano che i prodotti alimentari raggiungono la scadenza, ma sono ancora ottimi da mangiare, vengono messi nel retro del negozio in un luogo al riparo dagli sguardi. Poi scatta il passaparola nei confronti dei clienti in difficoltà che possono andare a prenderli evitando di essere bollati pubblicamente come poveri, cosa che purtroppo avviene davanti al bancone illuminato dei prodotti in scadenza offerti a basso prezzo. Il responsabile del supermercato ha deciso di adottare questa soluzione discreta quando si è accorto che stavano aumentando i piccoli furti fatti per disperazione. Un litro di latte, un pezzo di formaggio, due arance infilate nella tasca del cappotto. Quel retrobottega made in Italy restituisce dignità a chi ha la vita già amara. Così scrive Repubblica, pagina 7. Beh, credo anch'io di poter dire che si tratta di una buona iniziativa. Mentre... che dobbiamo fare in Sicilia per far costruire un ponte fatto come si deve? So, fate vobis, eh? Il Fatto Quotidiano racconta, pagina 9, il viadotto dei crolli. Vi ricordate? Inaugurato e crollato subito dopo. È crollato di nuovo. È acceduto in un altro punto. Agrigento, a Capodanno, altro episodio per un difetto di costruzione. Renzi aveva detto a gennaio troveremo i colpevoli, stiamo attendendo. Comunque Daniele Martini, è crollato in un secondo punto l'ormai famoso viadotto Scorciavacche 2 sulla statale 121 catanese che collega Palermo con Agrigento. Un nuovo gravissimo difetto di costruzione scoperto 2 febbraio, lunedì scorso, a distanza di un mese dal primo, in un tratto distante 150 metri dal primo punto. Secondo un'autorevole fonte ANAS che vuole conservare l'anonimato, stavolta si tratta di un ulteriore anomalo cedimento del piano viabile in corrispondenza del rilevato retrostante la spalla del viadotto. Insomma, ecco, tecnicismi, il rilevato è il manufatto di terra su cui vengono poggiate le campate e nel caso dello Scorciavacche è stato ampliato nella fase di ricostruzione dell'opera, la cui lunghezza è stata invece fortemente ridotta da 585 a 175 metri. Insomma, è crollato un altro punto! Ma come si fa? E vogliamo fare il ponte di Messina. Auguri. A proposito di Sicilia, eccolo qui il premio dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata, il premio Mani sul Volante, mani che vi invito a stringere moltissimo se siete alla guida. Non ci volevo credere che nel 2015 fosse possibile ancora questo tipo di approccio, invece Emanuele Lauria su Repubblica, pagina 9, ci racconta questo. Sicilia shock, la mazzetta non desta allarme sociale. Le mazzette non sono un fattore di particolare allarme sociale. No, no, no, no. È la motivazione contenuta in un parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato con cui la Regione Sicilia decide di non costituirsi parte civile nel processo per corruzione a un proprio funzionario. Una posizione destinata a alimentare polemiche e che fa ancora più discutere all'indomani dell'esortazione fatta dal neopresidente Mattarella sulla lotta alla corruzione. Il 19 gennaio, proprio nei giorni in cui prendeva forma la candidatura del neo capo dello Stato, peraltro, come sapete, siciliano, in un'aula del Palazzo di Giustizia di Palermo si registrava una vistosa assenza, quella della giunta siciliana, non rappresentata alla prima udienza del processo a carico di Gianfranco Cannova, dipendente regionale dell'assessorato al territorio, che ha ammesso di aver preso tangenti. E perché questo motivo? Perché nel parere dell'Avvocatura dello Stato inopportuna è stata definita la costituzione di parte civile, attesa la esiguità del danno provocato al patrimonio pubblico. Era una mazzettina, una piccola mazzetta. Io d'altronde, come ho detto varie volte, come si chiama l'elenco dei quotidiani che vengono dati ogni giorno anche a me? Si chiama in gergo mazzetta, quindi anch'io prendo la mazzetta. Non è una cosa grave come quella che ha preso questo funzionario della Regione Sicilia secondo le accuse. È una piccola mazzetta, dai, non desta mica allarme sociale. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. Ciao Milano, che te portino via fuoco. Il grande Angelino, dove sei finito Angelino? Manchi tu nella nostra segreteria telefonica, che possino dar fuoco anche a te. Anzi, che te possino piglia fuoco, come dici tu. Grandissimo Angelino. Allora, oggi i giornali raccontano molto di politica. Il tema è il Nazareno, cioè il patto del Nazareno, è rotto? Non è rotto, è sospeso, tornerà, risorgerà, chi lo sa, perché ieri è stata una giornata politicamente drammatica in Forza Italia. Prima la riunione e poi questo comunicato a dire il patto del Nazareno è rotto, non c'è più. Per la verità il Corriere della Sera fa notare, attenzione, nessuno all'interno della riunione di Forza Italia ha sentito queste parole, il patto è rotto, pronunciate da Silvio Berlusconi. E come racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera, pagina 3, Berlusconi è proprio così in questo momento. Berlusconi può cambiare idea in ogni momento in un quadro politico in evoluzione. Oggi è suo interesse spostare su Verdini la responsabilità della sconfitta allontanandola da sé, ma domani potrebbe tornargli utile l'uomo che resta a oggi l'unico interlocutore riconosciuto da Renzi, che non ha interesse a legittimare le nuove leve di Forza Italia. Per la verità c'è stata anche la classica riunione da cui fuoriescono le ricostruzioni più svariate. Secondo appunto questo articolo di Paola Di Caro c'è stato un duro confronto tra Verdini e Berlusconi. Verdini è stato molto arrabbiato con Berlusconi, soprattutto perché ha visto alcune interviste, in particolare le interviste di Maria Rosaria Rossi, che lo ha criticato dopo le elezioni di Mattarella. E allora Verdini ha detto a Berlusconi: tu mi hai fatto attaccare da quelle. E Berlusconi gli ha risposto: ma erano offese, tu le hai definite puttanelle. E Verdini: ma non è vero, non è vero, e loro lo sanno. Questa è la versione meno edulcorata dell'incontro scontro Verdini-Berlusconi. Quella più gentile accredita un confronto duro con Verdini, che dice: Silvio, io ho trattato, ma per te, e tu sapevi tutto. E Berlusconi che risponde: no, io ero presente solo in alcuni passaggi, tu mi hai garantito delle cose e poi alla fine vieni a dirmi che sei basito da Renzi. Comunque anche qui dovete sempre guardare dietro le cose. Infatti anche il Corriere dice: non hanno rotto Verdini e Berlusconi. Leggete addirittura La Stampa. E uno quando legge La Stampa e poi dice: ma se fosse davvero così come scrive La Stampa, e lo scopriremo tra qualche giorno, allora uno dice: ma veramente la carta costa e il dibattito politico costa ancora di più. La Stampa, pagina 8, Forza Italia, il patto è rotto, ma avanza la tesi. È un bluff. È un bluff. Questo secondo la stampa, ma non solo, eh. Amedeo la mattina, Berlusconi ha bisogno di fare la voce grossa per dimostrare che Renzi è stato scorretto e bugiardo nella partita del Colle. Un uomo di Stato non deve mancare alla sua parola, deve essere affidabile. Renzi lo è nei confronti del Paese, come è inaffidabile nei confronti di Forza Italia, lo è inaffidabile nei confronti del Paese. Questo è quello il messaggio che vuol far passare Berlusconi, che poi in realtà che il Nazareno sia saltato è tutto da vedere. Il grande bluff, lo definisce Amedeo la mattina sulla stampa. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Su che cosa ci stiamo accanendo con paginate, commenti di giornali, se poi tra qualche giorno tutto sarà come prima? Sta di fatto che Renzi, racconta Repubblica con Goffredo De Marchis, va avanti come un treno. Anzi, a lui viene attribuita la frase più crudele di questa situazione politica, che è questa: quello che i girotondini non sono riusciti a fare in 20 anni, io l'ho realizzato in uno. Forza Italia dilaniata e mai così debole. Effettivamente, non so se è stato fortunato nel periodo storico dal suo punto di vista o se davvero lui ha messo in atto questa strategia, ma Forza Italia è nel punto più debole della sua storia politica. Il loro obiettivo è bloccare l'abolizione del Senato, ma non ce la faranno. Alla Camera abbiamo i numeri senza di loro, al Senato troviamo i 20 che ci servono. Ecco, tutti qui adesso a mettere il pallottoliere della nuova maggioranza. Il giornale è sicuro, la maggioranza rischia, è appesa a 7 senatori. Ecco che tutti guardano allora al progetto annunciato qualche giorno fa sul Corriere della Sera di formare questo gruppo di responsabili, definendoli Operazione 2018, lo raccontava Francesco Verderami sul Corriere, per avere una maggioranza di sostegno. Comunque Renzi è sicuro, noi abbiamo i numeri, andiamo avanti. E per Libero invece Renzi ha poco da fare il bullo, ora in mano alla sinistra del PD. E insomma è tutto, cari ascoltatori, un teatrino. Interessa moltissimo il patto del Nazareno. A 1000 persone, ma interessa moltissimo, a 1000, 2000, quelle che si occupano di politica più o meno in Italia. E se a voi non interessa mentre fate le vostre colazioni lunghe lunghe, come dico sempre, siete voi i normali e non loro, sappiatelo, state sereni, state tranquilli. Per quel che riguarda la politica, c'è anche un'ipotesi che è accreditata da molti giornali, la possibilità che Renzi riesumi il Ministero per il Sud o Ministero per il Mezzogiorno, chiamatelo come volete. Spunta il Ministero del Sud, titolo di Repubblica pagina 6, e spetta una donna, e in corsa c'è Anna Finocchiaro. Non si capisce perché Anna Finocchiaro, che è senatrice in questo momento, debba essere piazzata per forza da qualche altra parte. Era quirinabile, d'accordo, ma pare che lei, racconta il Fatto Quotidiano, voglia andare alla consulta al posto di Mattarella, per l'appunto, visto che si è liberato un posto, presto se ne libererà credo un altro. Ma racconta il Fatto Quotidiano con Wanda Marra, c'è Renzi che dice ai suoi: alla consulta alla Corte Costituzionale Anna Finocchiaro non ha i titoli, continua a ribadire con i suoi. Parla chiaro l'articolo 135 della Costituzione: i giudici vanno scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, quindi Corte di Cassazione o Procura Generale della Cassazione. Lei ha fatto solo il pretore a Leonforte, poi è stata procuratore a Catania fino all'87, anno in cui venne eletta poi deputato. Ha fatto 28 anni di Parlamento, non ha neanche dunque l'altro requisito possibile, ovvero aver insegnato materie giuridiche all'università, quindi non ha un requisito. Allora bisogna trovare un ministero, ma non sta bene lì, dov'è? Non ho capito. E il Ministero per il Sud sarebbe l'idea di Renzi per Anna Finocchiaro. Cioè, attenzione, Ministero per il Sud, perché viene cancellato il Ministero Affari Regionali, quello occupato da Maria Carmela Lanzetta, che 2 giorni fa era stata nostra ospite e oggi è su tutti i giornali, fotografata nella sua farmacia Monasterace, dove è tornata a lavorare. Quindi cancellare il Ministero Affari Regionali e mettere il Ministero per il Sud o per il Mezzogiorno. Si libera dunque un posto per Anna Finocchiaro o per Mauro Meazza, chi lo sa? Chi lo sa? Perché sapete che queste cose proprio il veleno sta sempre nella coda. Caro Mauro, buongiorno. Buongiorno. tu sei esperto di sud? Non ho capito la... Sei esperto di Napoli, per esempio? Napoli, la conosci, Napoli? Sì, certamente, ci mancherebbe che conosca Napoli. È una città... Che ami, la città che ami dove... soprattutto da ieri sera, ami moltissimo. Non ho risentimenti particolari nei confronti di Napoli, casomai nei confronti del cronometro. Senti, non distrarmi, che devo... Le polemiche sull'arbitro. Devo... Meno male che c'è l'Inter. Dai, non c'è niente da attribuire all'arbitro. Volevo dirti, ci manca un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'hai preso tu? No, qual è? Sei sicuro? Aspetta. Ma è quello per la tua... Per il TFR in busta paga, una misura che peraltro era stata Sto controllando la... No. Guarda lì, se ti è finito in mezzo ai giornali. Vabbè, insomma, comunque, se leggi solo 24 di oggi, scopri che questo decreto, peraltro atteso entro la fine di gennaio, non è ancora pronto. Da marzo bisognerebbe partire con quella misura lì. Sì, c'è tempo. Quella della scelta del TFR in busta paga, sai, l'anticipo TFR, ma c'è tempo, se ne è parlato, quindi, marzo... No, lo so, però sai che il 20 di febbraio abbiamo degli impegni pazzeschi, c'è un Consiglio dei Ministri con un sacco di misure. Questo decreto non si trova più, poi prova a guardare bene quando finisce la trasmissione, non vorrei che ti fosse finito lì tra le carte. Adesso qua io sto già sfogliando. Trovi tutta la descrizione sul Sole 24 Ore di oggi. Mm. Così come invece è in vigore e fa discutere lo split payment, il momento, il nostro minutino di inglese, caro Alessandro. Split payment è una cosa che riguarda l'IVA, adesso non voglio tediare né te né gli ascoltatori, ma sappi che sostanzialmente fa in modo che i fornitori della pubblica amministrazione siano condannati ad andare in credito IVA. E questo non è tanto bello per loro, ne scrivono anche persino in una pubblicità sul Sole 24 Ore, ma vabbè, avrai modo di leggere soprattutto norme e tributi. Invece se ti soffermi sulle pagine finanza, magari cercando quel decreto che non si trova, vedrai che siamo pronti per collocare il 5-6% di Enel, privatizzazioni, tema privatizzazioni. È un altro tema abbastanza annoso, ma chissà. Tutti i dettagli nelle pagine di finanza. Poi naturalmente continuiamo con l'IMU agricola, il 10 febbraio sai che c'è da pagare. Sì. Questa imposta di cui oramai abbiamo quasi perduto la bussola, ma noi invece su Sole 24 ti diamo delle indicazioni importanti. E poi un messaggino, c'è il messaggio INPS, ci sono le indicazioni INPS per l'aumento dei contributi di artigiani e commercianti. E chi doveva sapere? Tutto ciò premesso, cosa siamo? Siamo già al 94esimo? No, sì. Faccio in tempo a dire. No, c'è tempo per fare un gol, tranquillo. No, perché il 94esimo è un minuto che comincia a starmi un pochino antipatico. Sì, sì. No, allora ti volevo dire che comunque se vuoi smobilizzare quei 2 eurini che io non ho più capito se tieni a Chiasso o dove altro tieni. Potresti utilmente leggere le pagine di Casa 24 oggi su Sole 24 Ore perché lì ti spieghiamo se comprare nuovo o comprare usato. Ci sono, come dire, vantaggi e svantaggi da considerare, da bilanciare, ma tutto questo naturalmente nelle pagine di Casa 24 oggi in edicola su Sole 24 Ore, ma anche su tablet in formato digitale, come vuoi tu. È il 94esimo? Sì, adesso va bene, allora d'accordo. Traffico! Carissimi fedeli, ascoltate Alejandro Milan e la sua rassegna stampa, è il chierichetto dell'informazione, palabra de Papa Francesco. Ascoltate tutti e ascoltate le parole di Francesco, se no volano sganassoni, come sapete svolano sganassoni dopo il pugno papale, dopo il papagno. È arrivato, come raccontano oggi i giornali, anche sdoganata la sculacciata per i genitori. Nell'udienza generale il pontefice racconta di un padre che gli disse: a volte devo picchiare i miei figli, ma mai in faccia per non avvilirli. E Papa Francesco ha senso della dignità, ha detto. Che bello, ha senso della dignità. Deve punire, lo fa il giusto e va avanti. Insomma, non passa giorno che non stupisca questo Papa, dal Papa famoso della carezza ai vostri figli una volta che tornate a casa, al Papa che dice: se i figli ogni tanto, vabbè, lo dirò a Mattia e ad Angelica appena succede, i miei 2 figli che ho la dispensa papale se dovesse capitare. Uno schiaffo al figlio che sbaglia, l'etica coraggiosa del Papa Gaucho. Eccolo qua, il Papa è già Bergoglio. Sul ruolo dei padri, punire a volte è giusto e necessario. Questo è il titolo del giorno. Ma anche su Repubblica c'è una pagina proprio sul Papa che sdogana anche la sculacciata. Vabbè, allora, cari italiani, notizie che mi hanno incuriosito sono legate alla politica, ma non solo, che ha fatto il sindaco di Verona, Tosi, Flavio Tosi, apre alle coppie di fatto. Le unioni civili, ovviamente, è un tema che nella Lega è molto molto sentito. Infatti, scrive il Corriere, gelo di Salvini. Verona sarà la prima grande città del centrodestra a varare un registro per le unioni civili. Per il sindaco sono mutate esigenze della società. E Salvini pare che abbia commentato con i suoi, così racconta Marco Cremonesi sul Corriere, e dire che avevo detto ai sindaci di avere come priorità assolute le case popolari, il fisco e la disabilità. E comunque Salvini, tra l'altro, dice non era stato informato da Tosi, fanno sapere. Staremo a vedere, interessante la posizione di Tosi. Se domani vorrà lo inviteremo qui a Radio 24 per capire che ne pensa di questa cosa. Mentre invece, facendo un salto e andando in un comune del sud siciliano, Agrigento, dove di recente abbiamo raccontato delle polemiche incredibili per le 1300 sedute fantasma delle commissioni comunali, con sedute anche di qualche minuto giusto per prendersi il gettone, questo è il dubbio, il gettone di presenza, questo è il dubbio che è venuto a molti. Agrigento, però, l'Agrigento e la società civile reagisce. Scrive Repubblica: le 1300 sedute fantasma dei consiglieri di Agrigento in città scoppia la rivolta. Il tam tam corre sul web, racconta Alessandra Ziniti a pagina 19, e in pochi giorni sono 6.000 quelli che aderiscono al gruppo Noi Siamo Altro. Agrigento manifesta. Questi sono gli hashtag, li trovate su Twitter così, Ma a prendere tutto in contropiede sono i 1000 che improvvisamente si ritrovano a Porta di Ponte alle 8 di sera ieri per marciare sul comune, mentre le telecamere di Ballarò raccontano all'Italia intera cosa sia la mala politica messa all'indice dal neopresidente Mattarella. Insomma, iniziano anche i cittadini a protestare, scesi per protestare contro il comune. Noi siamo altro, questo è l'hashtag che hanno utilizzato. Perché tutti parlano e fanno i conti in tasca ai 30 consiglieri comunali sulle 1133 sedute delle 6 commissioni consigliari permanenti nel corso del 2014, sedute di pochi minuti che non hanno prodotto nulla e sono costate al comune 300 milioni di euro e hanno portato mediamente nelle tasche di ogni consigliere 10.000 euro. Vabbè. Allora, noi parleremo con ovviamente Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, alle 8.15. Parleremo di tutto quello che succede, soprattutto l'ISIS, soprattutto in Libia, soprattutto in Siria. Mi ha molto colpito. Tutti i giornali fanno notare proprio la risposta, cioè quei terroristi dell'ISIS bruciano vivo un pilota giordano, e in Giordania cosa dicono? Condanniamo a morte e giustiziano due persone. Bravi, bella risposta. A me sembra una cosa barbara e a maggior ragione, visto che da giorni lo dico, il no forte alla pena di morte si è toccato con mano ieri, lo schifo. Ah, quelli ammazzano uno, noi ne ammazziamo due. Va bene, andiamo avanti così. Sentite cosa ha detto l'imam di Al-Azhar, cioè l'università del Cairo più importante. Questi terroristi che hanno bruciato viva una persona dovrebbero essere crocifissi, andrebbero tagliati loro gli arti. Bene, mi sembra veramente una risposta all'altezza. E va bene, comunque di queste cose parleremo, soprattutto delle nostre frontiere, della nostra sicurezza. Guardate cosa scrivono sia il Messaggero che il Giorno su Moussa Koulibaly, che è colui che 3 giorni fa ha fatto un assalto a un centro ebraico a Nizza e ha ferito accoltellando 3 soldati francesi. Una settimana prima dell'attentato era a Roma. il viaggio dell'attentatore di Nizza. Era a Roma una settimana fa, scalo nella capitale per l'uomo che ha coltellato i 3 soldati francesi. Anche il messaggero, il Koulibaly, fece tappa a Roma per arrivare in Siria e viene immortalato in foto anche durante un controllo di un passaporto. E va bene così? Non so. Sappiate invece che in Norvegia, cari mendicanti, care persone che chiedete la questua, chiedete una moneta per strada, potreste finire presto fuori legge. La Norvegia, dove c'è un governo di centrodestra, racconta Libero con Maurizio Stefanini a pagina 14, sta varando una legge per mettere in galera chi chiede l'elemosina. Proibito l'accattonaggio. Anzi, attenzione, in galera viene messo, quindi, anche se è proibito, chi fa l'elemosina. Cioè, se venite beccati a dare dei soldi, visto che è fuori legge, beccati. Oh, non ho tempo! La carta costa sul Corriere! Una pagina intera per il ginseng! Siamo la generazione ginseng! Vabbè, è entrato nel paniere dell'Istat, è entrato nei gusti degli italiani. Una pagina sul ginseng! Ma chi se ne frega!